Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Iniziamo in un modo assolutamente diverso, cari ascoltatori e ascoltatrici, questa puntata, perché eccoti qua, ciao Chiara, siamo a SMAU. Sì, ciao Federico, ciao a tutti quelli che ci guardano dal vetro. Da quelli che ci guardano dal vetro, perché in questo momento appunto siamo in un gabbiotto, in una di quelle specie di acquari che la radio ogni tanto mette su quando va in fiere, grandi appuntamenti, e SMAU è certamente uno di questi, però andiamo rapidamente ai contenuti dobbiamo di questa puntata. Dobbiamo andare rapidi perché abbiamo troppa roba. Abbiamo già qui un sindaco di fronte, quindi sì, dobbiamo... perché abbiamo un sindaco? No, perché uno dei temi centrali di SMAU è Smart City, un concetto affascinante, un progetto molto bello e strano perché sta sviluppandosi in tutto il mondo. Si tratta di riuscire a riconvertire verso soluzioni, proposte intelligenti le città che per esempio in un paese come il nostro hanno magari 2000 certo. anni, quindi non è impresa facile, però molte cose interessanti si possono fare e noi un po' di questo vi parleremo in questa certo. puntata. Ad una fiera dell'innovazione non può mancare la città intelligente, le tecnologie da applicare alla città intelligente, ma anche alle macchine intelligenti. Ok, e infatti molta intelligenza sta entrando nei veicoli e anche qui se ne parla un po', ma noi abbiamo fatto un giro più ampio. Abbiamo fatto un giro europeo, un giro europeo dire, e le tecnologie esatto. Che saliranno sulle auto del futuro, ma non troppo futuro. No, insomma, è già qua intorno a noi. E poi tanto spazio ai giovani. Le start-up, quindi le giovani aziende che partono con idee nuove, con innovazione, ne sentiremo credo almeno 4, se non sì, forse qui, 5. Qui da noi ce ne sono 4, verranno ospitati, arriveranno 4 ragazzi giovani, però a SMAU ci sono all'incirca un centinaio di giovani casi che ci raccontano appunto delle loro idee, le loro invenzioni molto molto innovative. E di cui parleremo probabilmente qualche altra puntata. Andiamo dal nostro sindaco, presentalo tu che è qua di fronte a noi. E certo, abbiamo qua il sindaco di San Giovanni in Persiceto, della provincia di Bologna, si chiama Renato Mazzucca. Buonasera sindaco. Buonasera a voi e a tutti i vostri ascoltatori. Benvenuto. E il vostro è una cittadina di quanti abitanti? 27.500 per l'esattezza. Però venite qui a SMAU a portare la vostra testimonianza perché in realtà avete fatto una cosa molto innovativa, molto importante e che vi ha portato anche un bel giovamento dal punto di vista energetico e anche economico. Assolutamente sì, abbiamo fatto una cosa un po' ardita anche oggigiorno perché abbiamo investito un po' di soldi che adesso mancano ai comuni, 1.600.000 euro, quindi sono tanti, proprio per innovare la nostra rete tecnologica con il primo obiettivo che era quello di risparmiare ovviamente risorse economiche che venivano utilizzate per pagare la bolletta della luce nella pubblica illuminazione, ma poi ci siamo accorti che questa innovazione tecnologica ci ha portato anche altri benefici su versante proprio dell'abbattimento del digital divide e tutto il tema della videosorveglianza, del wifi e tante altre cose. Perché che cosa avete installato nelle vostre strade cittadine? Noi abbiamo installato su tutti i nostri 5.000 punti luce, quindi della pubblica illuminazione, un dispositivo di smart town praticamente, quindi un dispositivo di telecontrollo a distanza sia della pubblica illuminazione, quindi noi riusciamo da remoto, quindi da un PC, da un computer, a gestire l'accensione e lo spegnimento della pubblica illuminazione, quindi si può accendere dopo e spegnere prima e questo già ci porta un po' di risparmio. Oppure anche accendere in alcuni punti e spegnere in altri. Esatto, anche, oppure avere proprio la regolazione dell'intensità luminosa. Dopo un certo orario l'intensità luminosa può calare, quindi dopo la mezzanotte cala. Oppure dice verso mezzanotte perché c'è meno gente che passa. Esattamente. E meno necessaria. E certo. Questo vuol dire risparmiare notevolmente anche energia elettrica. Nel nostro caso anno noi risparmiamo 200.000 euro di costo della bolletta e non è di poco conto certo. perché possono essere impiegati ovviamente per altri. Certo. In comuni, in cittadine di dimensioni ridotte, 200.000 euro possono essere una bella e consistente differenza. Le immagini proporzionate in una città come Roma, ovviamente, o Milano, certo. visto che siamo a Milano, porterebbe un grossissimo risparmio. E questo tipo di lampioni intelligenti in realtà portano con sé anche tecnologie legate ad altri ambiti, che non sono solo quelli dell'illuminazione. Esatto, possono ovviamente essere applicate altre tecnologie, perché il sistema delle onde convogliate, che questo è il sistema che USA Smart Town, lo dico perché è importante, in collaborazione con Umpi e Telecom abbiamo realizzato questo progetto, ci permette e ci ha permesso ad esempio di realizzare un sistema di videosorveglianza, quindi la trasmissione delle immagini con una copertura capillare. Cioè. Esattamente, la pubblica illuminazione in superficie è il sistema più capillare presente sul territorio, quindi la videosorveglianza, ma anche il ragionamento che facevamo prima sul wifi gratuito, ecco, per i cittadini. Esatto, quindi abbiamo realizzato per adesso alcuni hotspot nei punti nevralgici della città e quindi nelle piazze sia della città che delle frazioni, abbiamo anche le frazioni, quindi questo è importante. Ecco, Mazzucca, credo una cosa importante da dire a chi ci ascolta: non c'è un cavo di rete che collega i pali, voi praticamente usate la stessa rete elettrica che però su frequenze molto diverse può trasmettere per esempio immagini, esatto, e quindi avete le webcam e i dati. O i dati, no? Questo è il concetto, esatto, di onde convogliate, che vuol dire che non c'è bisogno di un'altra rete che poi insegua tutti i lampioni, quella che c'è già funziona. Esatto, per capirci anche non dobbiamo fare scavi, non dobbiamo posare cavi, non dobbiamo usare altre infrastrutture. Questo è molto importante. Questo. Infatti a livello di costi, in conclusione, un lampione intelligente a differenza di uno normale più o meno il costo è molto diverso? Il lampione in quanto tale costa uguale, è quello, esatto, certo, è il dispositivo che viene non messo su ogni lampione per essere preciso, ma sul quadro che comanda vari lampioni ovviamente, e che è quello che permette poi dopo attraverso una SIM, quindi attraverso anche un sistema di collegamento, di trasmettere i dati o le immagini. Noi abbiamo un costo indicativamente, adesso qui 1.600.000 euro, abbiamo fatto 600.000 euro di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione per portarlo a norma, e gli altri 100.000 euro per 10 anni sono stati l'investimento legato proprio alla tecnologia innovativa che abbiamo inserito. Bene, sindaco. Grazie sindaco, continuate grazie. Così. Grazie a voi, grazie a voi. A presto, arrivederci. Medios, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Abbiamo scelto di iniziare con una piccola cittadina, sì, San Giovanni in Persiceto, per poi passare a una grande città, Torino, e anzi, certo, a una grande area metropolitana, e qui cominciamo anche a descrivere bene un aspetto di queste infatti progettazioni. Infatti i problemi sono diversi e l'innovazione, l'applicazione è differente. E devono essere capaci di andare oltre quella che è una grande città e prendere tutta un'area metropolitana. Salutiamo subito Enzo Lavolta, buonasera Lavolta. Buonasera, grazie per l'invito. Assessore all'ambiente e allo sviluppo della città di Torino. Così. A San Giovanni Persiceto che cosa hanno fatto? Un piccolo intervento mirato su lampioni intelligenti ed è la una pubblica cosa buona. Illuminazione. Esatto. Se si può però, se si ha la capacità di governare un processo più complesso, fare Smart City può invece entrare in un'altra dimensione, che è quella di vedere le cose molto più in grande, cioè non solo interventi specifici ma rovesciare. Mi sembra che a Torino sia in atto da parte vostra una progettazione che va proprio in questo senso. Ma è esattamente così, nel senso che Torino sta attraversando la sua ennesima trasformazione dopo la fase industriale che ha fortemente caratterizzato quel nostro territorio dal punto di vista manufatturiero, dopo una seconda fase, diciamo, di riscoperta, di visibilità nuova della città grazie anche all'evento olimpico. Oggi Torino si sta interrogando su quale visione di sviluppo è bene che caratterizzi i prossimi anni, e diciamo che lo stimolo forte che arriva dalla Commissione Europea sulle Smart City ci costringe a ragionare in questi termini e quindi a definire una visione. Da assessore all'ambiente, oltre che allo sviluppo economico, e coniugare le due cose non è sempre facile. Sì. Diciamo che una buona sintesi mi pare proprio essere quella delle Smart Cities. Per noi è l'occasione per immaginare, come dicevo, una visione nuova. Noi abbiamo vissuto le fasi di trasformazione più significative caratterizzandole con dei piani strategici. Prima il sindaco Castellani ha immaginato una visione strategica che fosse di trasformazione del territorio, con piano urbanistico nuovo, rinnovato, richiudendo quelle cesure che erano i passanti ferroviari che caratterizzavano il nostro territorio. C'è stata una seconda fase con Chiamparino, caratterizzata dall'idea della società della conoscenza, che ha visto il Politecnico e tutto il settore, diciamo, ingegneristico, innovativo, caratterizzare particolarmente questa graduale emancipazione dalla Fiat, dall'idea della One Company Town. E oggi probabilmente siamo nelle condizioni di poter immaginare e definire un terzo piano strategico, e naturalmente il sindaco Piero Farsino mi sembra una persona particolarmente qualificata per poterlo fare. Ci fa qualche esempio magari di quali potrebbero essere gli interventi intelligenti su questo tipo di come piano? Voi pensate di rovesciare, no? Cioè le tecnologie ci sono, però volete prima avere un quadro... A noi interessa se... Come accennavo prima, l'obiettivo è definire una visione strategica, non ci interessa certo l'informatizzazione dell'inessenziale, non ci interessa avere necessariamente a disposizione la tecnologia più avanzata dal punto di vista tecnologico, non siamo alla ricerca di innovazioni che ci facciano uscire sui giornali, per intenderci. Smart City, per come la interpreto io, è una ipotesi di sviluppo economico e sociale. Perché sia un'occasione di sviluppo economico e sociale, deve innanzitutto penetrare nel cuore della pubblica amministrazione. Smart City è l'occasione per mettere in relazione direttamente la Commissione europea, quindi l'Europa, con i sistemi locali. E in questa fase mi sembra che, se vogliamo immaginare uno sviluppo generale anche dei nostri territori, questa connessione, questo link diretto sia uno straordinario valore aggiunto dal quale io non prescindo nelle analisi. E di conseguenza, nel momento in cui andiamo a definire una visione, una strategia di sviluppo, se l'amministrazione deve essere protagonista, ne deve essere anche pervasa in qualche modo. E uno dei limiti più grossi oggi è che i sistemi locali non possono promuovere sviluppo economico e sociale perché non hanno gli strumenti economici per farlo. In realtà, se invece cambia e comincia a cambiare la mentalità, la testa della pubblica amministrazione, se la pubblica amministrazione comincia a riconoscersi come credibile, come facilitatore, come colui che, come il soggetto che in funzione di un'attrattività che deve caratterizzare quel territorio riesce a garantire la facilità, la snellezza anche di alcune procedure, questo io penso che anche nel rapporto con i privati possa essere sicuramente un valore aggiunto. Quindi all'interno di una visione sistemica, quello che per noi è fondamentale in questa prima fase di pre-elaborazione del piano strategico è far entrare nel cuore della pubblica amministrazione il concetto di Smart City, e quindi tirar fuori il meglio dai nostri dirigenti, direttori della pubblica amministrazione, che oggi sono impegnati in modo trasversale, quindi non ci sono più le politiche segmentate settore per settore. Tutti i settori della pubblica amministrazione sono investiti dal concetto di Smart City, dall'urbanistica all'istruzione alla cultura. Smart City è uno straordinario progetto culturale. Quindi la tecnologia poi arriva perché vi rende possibile questo processo. E io poi so anche che voi avete un disegno giustamente ambizioso, che è quello di affrontare uno dei temi più complessi da sempre delle città, cioè le periferie e il centro. Assolutamente sì, nella recente trasformazione e riqualificazione della città di Torino, per chi ha potuto venire a trovarci nel corso degli ultimi anni avrà potuto verificare che c'è stata un'attenzione particolare al centro cittadino. Andare a mettere mano, a riqualificare il tessuto, anche con apporti tecnologici innovativi che possano ad esempio favorire anche la percezione della sicurezza in ambienti periferici, penso che sia l'obbligo verso il quale dobbiamo muoverci come pubblica amministrazione. Quindi approfitteremo di questa strategia, e tra l'altro è così come è stato fatto durante le Olimpiadi, no? Si è approfittato di questa straordinaria opportunità per riqualificare la nostra città e renderla e farla riscoprire. Approfitteremo anche in questo caso di questa strategia più ampia per mettere mano alle periferie torinesi che oggi meritano attenzione. Quindi per una trasmissione di scienza come la nostra il messaggio che esce è che appunto le tecnologie devono servire a un progetto più generale. A volte, certo, è vero, può avvenire il contrario, ci si innamora della tecnologia e sotto. E questa è anche un po' la differenza tra le città più piccole e quelle più grandi, forse. Le città più piccole ha perfettamente senso magari che facciano degli interventi mirati e specifici. Grazie Assessore Lavotto. Grazie a voi. Grazie. E adesso iniziamo a parlare di startup, e lo facciamo con una startup che direi, dopo la moltiplicazione del pane e dei pesci, sarebbe il più grande miracolo. Chiara? Il più grande miracolo, sì. Allora, la startup intanto si chiama Curami, ha sede a Roma, e qui con noi c'è l'amministratore unico e fondatore, che è Roberto Macina. Ciao Roberto. Ciao a tutti. Ciao Roberto. Voi state per mettere a punto un sistema che fa saltare le code con il cellulare. Miracolo, guidiamo tutti questo al miracolo. È un miracolo. Spiegaci, per me è impossibile, però proviamo a sentire. Spiegaci che cosa avete escogitato. diciamo che noi scientificamente virtualizziamo una fila, una coda d'attesa. Come lo facciamo? Tramite lo smartphone. Quindi noi possiamo non entrare più nella sede fisica per il numeretto ad aspettare costipati nella sala d'attesa, ma prima di entrare mi connetto con la nostra app tramite un qualsiasi smartphone, iPhone o piuttosto che Android, e vedo la situazione della fila in tempo reale e riesco, oltre a prenotare un bigliettino virtuale, anche a sapere lo stato della coda in tempo reale. Quindi io nel frattempo posso fare altro, andare a mangiare, andare al bar, leggere il giornale comodamente su una panchina, essere unificato in tempo reale sull'andamento della fila. Viene quantificato anche il tempo di attesa, così stimato. Che se io so che mi mancano 30 minuti ho il tempo di fare la spesa, eccetera eccetera. Ma però voi con l'ufficio postale dovete essere d'accordo, comunichiamo certo. E lui che vi dice 6221, esatto, e quindi ci vediamo sabato prossimo. Il nostro software, oltre ad avere la parte, diciamo, client, ovvero quello che l'utente legge, ha uno strato che è il nostro software, che si interfaccia con le macchinette hardware presenti nelle poste, nelle banche, eccetera eccetera. E la potenzialità è importante perché potrebbe ovviamente non essere collegato soltanto all'ufficio postale ma anche all'ASL, tutti gli uffici amministrativi che accettino questo tipo di transazioni. Di code ne abbiamo praticamente ovunque, infinito, soprattutto in Italia. E poi hanno pensato a tutto, perché nel momento in cui tocca a te o comunque sta per arrivare il tuo turno, che cosa succede? Il telefono ti parla, ti squilla, cioè cosa ti dice? Tocca a te, corri, è il tuo turno. Oppure, e la cosa importante, oltre al tempo stimato, come diceva Chiara prima, è la situazione in tempo reale. Quindi io so, oltre la stima del tempo, ma anche le persone in tempo reale che ho davanti a me. Quindi il sistema mi dice, hai 30 persone, ne hai 29, ne hai 28, ne hai 27 e così via. Come essere lì. Esatto, come avere il tabellone della posta nel palmo della tua mano, anziché stare là dentro. Roberto, ci stiamo arrivando, siamo in fase di brevettazione. Ti aspettiamo con ansia. Assolutamente. Il sistema oggi è online sull'Università Romane LUIS Roma 3. E a gennaio apriamo il nostro circuito, che andrà da Milano a Roma passando per Firenze. C'è un sito? C'è un sito www.curami.com. Curami con la Q? Con la Q. Sì. E dove potete vedere tutte le informazioni e dove scaricare le nostre app gratuitamente. Grazie Roberto. A voi. Ciao. Medios, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Vi stiamo parlando di smart city, ma molta intelligenza sta entrando anche nelle automobili. E noi cosa abbiamo fatto? Ti abbiamo mandato in Belgio e tu su che cosa sei salita? Su una macchina Mustang. Del tempo speciale. Una Mustang. Vado. Vai. Aiuto! Ci troviamo a bordo di una Mustang 5000 GT, come sentirete anche dal rombo dei motori. Ecco, siamo qui in uno dei circuiti di Lommel, che è una cittadina di 30.000 abitanti a nord del Belgio. Qui gli esperti e gli ingegneri di Ford testano su 80 km di piste le tecnologie che troveremo a bordo della nostra auto in un futuro neanche tantissimo lontano. Ecco, in questo momento sto girando in pista con un pilota professionista, non temete, e qui le auto davvero non solo vanno veloci, ma devono superare complessi test per misurare appunto le capacità e la resistenza delle auto. Ecco, in questo momento stiamo attraversando un tratto di strada piuttosto sconnesso e le vetture devono anche affrontare superfici sterrate, pozze di acqua, discese e salite con pendenze fino al 30%. Ma qui la qualità delle auto non si misura solo in pista. Ecco, intanto scendo dalla Mustang. Grazie mille! E raggiungo Elena Cortesi di Ford Italia, che ci spiega come si sta muovendo la tecnologia al servizio della sicurezza. Ecco, ora ti stai sedendo sul sedile di un'auto e ti allacci una cintura di sicurezza speciale, innovativa. Sì, innanzitutto sono seduta sulla seconda fila, quindi non sto guidando e non sono accanto al driver. Mi allaccio la cintura di sicurezza come se fosse una cintura normale. E che succede a questo punto? Fingiamo! Per carità, fingiamo di avere un incidente e cosa succede? Succede che questa cintura ha un airbag incorporato, quindi che nel momento dell'impatto il meccanismo sprigiona del gas che va a gonfiare questo airbag, e l'airbag ha il compito di andare ovviamente a proteggere e limitare i movimenti di collo e testa durante l'impatto. Questo ovviamente perché così, in questo modo, si riducono gli eventuali danni ai passeggeri. Simuliamolo. Ecco, stai per avere l'impatto. L'hai avuto e sei sana e salva. Adesso noi ci spostiamo, ci sediamo su un altro di questi sedili che sono qui in prototipo, e accanto a me, ecco, io adesso mi siedo e accanto a me c'è uno schermo con un elettrocardiogramma. E questo che cosa mi fa capire? Allora, i problemi cardiaci durante la guida sono frequentissimi, sono una delle principali cause di incidenti, e per cui ovviamente stiamo cercando di trovare una soluzione. Abbiamo praticamente integrato l'elettrocardiogramma nella poltrona del conducente per mezzo di 6 sensori che sono posizionati nella parte posteriore. Interessante dire che questi sensori riescono a percepire il battito elettrico, quindi in realtà l'impulso elettrico che il nostro cuore emana. E non devo essere nudo? Esatto, quindi attraverso un normale abito, quindi un maglione piuttosto che una giacca normale. E cosa fa? Percependo l'impulso elettrico, quindi riuscendo a calcolare il numero dei battiti e percependo la distanza di un battito, il tempo di distanza tra un battito e l'altro, riesce a verificare lo stato di salute del conducente. Quindi se percepisce che il livello di stress è particolarmente elevato, può addirittura il sistema andare a... E il sistema ha 2 livelli di allarme. Il primo livello è quello che avvisa gentilmente il cliente con un messaggio ovviamente non panicante che c'è qualcosa che non va e lo invita a fermarsi. Il secondo livello, quando invece percepisce che la situazione è grave, è addirittura una chiamata d'emergenza al centro di assistenza. Il Park Assist è praticamente già realtà, la funzione grazie alla quale anche il più imbranato può imbroccare il parcheggio al primo colpo, perché la macchina ci segnala il posto auto e parcheggia da sola, come ci spiega Jay Ward, responsabile di sicurezza Ford. Si usa un sensor dove la macchina si trova un posto la stessa misura della macchina, un po' più grande. Quando la macchina si trova un posto, si va in avanti un po', poi la pilota fa tutto la steering, ha fatto tutto il freno, la gas, ma la macchina fa tutto il resto. La macchina fa lo steering, è una cosa meravigliosa, diciamo, è una cosa che abbiamo trovato che i clienti piacciono tantissimo, è un sistema molto facile da usare. È molto impressionante perché sembra che ci sia un fantasma a guidare la macchina. Sì, è vero. La prima volta che si usa è un po' strano, diciamo, però dopo un paio di volte dipende abbastanza normale, diciamo. La smart car del futuro, oltre ad essere sicura e intelligente, dovrà anche essere divertente. Per chi sogna la famosa kit di supercar, ci sono buone notizie. Ascoltate. Play artist The Beatles. Playing artist The Beatles. Gli abbiamo chiesto di suonare i Beatles e, attenzione... Please say a command. I'm hungry. Sono affamato. Where would you like to search? Nearby or in the city? Nearby. Say the POI category or say next or previous page. So here we are, now the system is displaying different kinds of restaurants to us. Adesso ci chiede di scegliere il ristorante che preferiamo. Ma prima di andare in Belgio, Chiara ha fatto un salto al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, dove sì, c'è una mostra che c'entra sempre moltissimo con le auto. Sentiamo. Un transatlantico alla mia sinistra e una flotta di aerei alla mia destra, mi trovo al Museo di Scienze e Tecnologia di Milano e per la precisione in mezzo agli exhibit della mostra Democratizing Technology. Insieme a me c'è il curatore di questo dipartimento, che è il Dipartimento Trasporti, e curatore anche della mostra, Marco Iezzi. Ciao Marco. Dunque, intanto, che cos'è questo rumore che sentiamo in sottofondo? Beh, questo è il tipico ping di un sottomarino. Come sapete, qui al museo c'è anche il sottomarino Enrico Toti. Ma quello che stiamo sentendo di preciso è un sonar, perché abbiamo scoperto che il sonar non si nasconde solo dentro un sottomarino, ma lo possiamo trovare in giro in oggetti molto più comuni. Ad esempio, molte auto moderne nascondono proprio al loro interno dei sonar. Che servono per? servono sicuramente per parcheggiare, ma possono servire per molte altre cose. Ad esempio, tramite dei sonar magari possiamo scoprire un po' meglio, coprire un po' meglio la cosiddetta zona d'ombra o zona morta degli specchietti retrovisori. Possiamo monitorare un attimo il traffico intorno a noi e poi con altre tecnologie simili, quali il LIDAR o il radar, riusciamo a essere più sicuri durante la nostra guida e soprattutto occuparci di guidare e non essere distratti da mille altre situazioni che si trovano intorno a noi. In questa mostra abbiamo fatto proprio quello, abbiamo smontato delle auto, siamo andati a cercare le tecnologie che ci aiutano oggi ad andare in giro un pochino più sicuri, un pochino più tranquilli, e abbiamo scoperto che ci sono tante cose proprio interessanti, affascinanti, che ci permettono appunto di essere più tranquilli e sicuri, ma ci permettono anche di consumare meno, di essere un pochino più dei consumatori di auto un pochino più intelligenti e a volte anche pretendere che certe cose ci siano anche a bordo del nostro mezzo, perché vogliamo che noi e i nostri cari siano tranquilli e sicuri. Lo scopo di questa mostra, infatti lo dice anche il titolo, Democratizing Technology, è proprio portare la tecnologia un po' alla portata di tutti, diciamo quelli che prima forse erano optional, oppure tecnologie utilizzate per altri mezzi, per missioni spaziali, piuttosto che per flotte aeree, come abbiamo detto per i radar, eccetera, eccetera, arrivano nelle nostre auto, nelle nostre case, insomma è proprio un po' questa la mission, la politica di questo spazio in cui ci troviamo. È proprio così, il ragionamento è stato quello proprio di scoprire insieme al nostro pubblico che piano piano queste tecnologie, che un tempo si trovavano solo in ambiti particolarissimi, in ambito militare piuttosto che in grandi strutture quali le navi e gli aerei, piano piano sono scivolate nel quotidiano e senza neanche che noi ce ne accorgessimo, e a volte però senza neanche sapere come funzionano e quali sono le loro potenzialità. Quindi il nostro obiettivo era quello di spiegare cosa si nasconde dietro queste tecnologie, non farci spaventare e approfittare della presenza di queste tecnologie, perché a volte sono veramente comode e utili. Posso dirti cosa ho scoperto io? Ad esempio, il chip o l'antitaccheggio che utilizzano i commercianti dei negozi appunto per impedire il furto delle merci, ecco, in questo caso tu me l'hai mostrato, servirebbe per accendere l'auto, comunque fare in modo che l'auto mi riconosca. Che vuol dire? Su molti prodotti in commercio viene messo questo antitaccheggio, che alla fine è un microchip in grado di riconoscerci, e l'idea di molti è stato quello di far sì che il nostro mezzo ci riconosca, quindi ci permetta di accendere l'auto, di aprire magari il baule della macchina senza dover cercare, frugare nelle borse, nelle tasche, utilizzare le mani, insomma, esatto, che di solito sono sempre impegnate. E addirittura con questo metodo potrebbe riconoscere la mia persona e sistemare ad esempio il sedile nella posizione di guida mia ottimale, che può essere diversa da quella di mio marito o da quella di mio figlio. Esattamente questo, quindi questo microchip può diventare un microchip personale e quindi setta la nostra macchina nel modo preferito, magari addirittura carica le nostre playlist preferite. La supercar sta arrivando. Fa vedere cosa hai scritto sul giornale. Qui Napoleone e poi tutta la biografia, quando è nato, quando è morto, varie battaglie. Tu gli hai mandato un messaggio Napoleone? Sì, allora io ho composto il numero che mi è stato segnalato da Marco, che ora ti presento, e poi mi è arrivata la definizione direttamente da Wikipedia. Come sul cellulare? Sul cellulare, sì. Una piccola biografia di Napoleone. Abbiamo qui Marco Bagnaresi, il sistema di cui abbiamo appena parlato si chiama OpenXD, e Marco fa parte, è il fondatore di questa startup che si chiama Frostlab Gate, che ha sede a Ravenna. Intanto ciao Marco. Ciao. Allora, raccontaci un po' questo sistema che ci permette di mandare un SMS con una domanda, insomma, che poi ci dici tu a chi arriva, e ricevere delle risposte molto precise. Sì, allora, OpenXD è un motore di ricerca via SMS e MMS pensato specificatamente per l'operatore telefonico. In pratica è possibile inviare un messaggio con una richiesta composta da parole chiave. Un messaggio normale da un cellulare normalissimo. Un SMS come il mio. Normale. Esattamente. A quel numero. Ha un numero. Napoleone. Esatto, breve. E il sistema è elabora la richiesta e restituisce la risposta in base a quello che un utente ha chiesto. Insomma. In 10 secondi, eh? 10 secondi. Ma la prende da Wikipedia, per esempio, oppure anche da altri? È possibile integrarlo anche con altri sistemi, sì. A scelta dell'operatore. Generico. Esatto, sì. E il messaggio lì era anche abbastanza lungo, cioè ti può dare non poco. Sì, perché è possibile inviare dei messaggi anche fino a 512 caratteri circa, quindi è possibile inviare comunque delle risposte abbastanza corpose. La cosa interessante è che comunque tu riesci a mantenere poi questa parte di testo anche nel momento in cui, ad esempio, i moderni smartphone non possono connettersi a internet. Certo. Cioè, ti ripeto che lo posso fare col mio telefono dinosauro, quindi che è bruttino, in realtà, se lo vedo. Ecco. Certo, quindi con un semplice, però anche con un telefono evoluto. Assolutamente, sì. L'SMS è molto più facile da mandare, a volte con la rete non la prendi, ma una telefonata la fai. Esatto, cioè l'SMS uno lo può sempre mandare, insomma. Sì. Senti, però qui c'è un problema, diciamo, di tipo tecnico, ma commerciale anche. L'operatore telefonico va a prendersi dei contenuti in rete, ma deve fare degli accordi. Ovviamente sì, noi abbiamo realizzato questo servizio di test in collaborazione con Wikimedia Italia e Telecom Italia, praticamente il direttivo di Telecom Italia, e abbiamo fatto questo prototipo in fase alfa, che appunto sarebbe Wikipedia SMS, insomma. Quindi ecco, l'accordo è con Wikipedia. Sì, diciamo che siamo in trattativa con Wikipedia. Vogliamo, sì, dire agli ascoltatori che qualora volessero provare, possono provare in questo istante, perché Marco adesso ci dà il numero. Ah, sì. Allora, 349 22 84 046. Può inviare un messaggio e... con qualsiasi testo, cioè sì, con qualsiasi domanda, con qualsiasi informazione si voglia richiedere. Relativamente a Wikipedia, ovviamente, sì. Posso ripeterlo? 349 22 84046. Grazie Marco. Auguri, grazie. Ciao. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Bene Chiara, allora in conclusione, sì, di puntata, ultimo giro con le startup, ne abbiamo due. Sì, dobbiamo... devo dire che qui a SMAU ce n'erano veramente tante. Iniziamo questo blocco con una che si chiama ATS, ora ci facciamo raccontare di che cosa si tratta. Il titolo, per intenderci, è Archeologia Preventiva, che è un nome altisonante. Francesco Fontanelli è il fondatore di questa società che ha sede all'Università di Siena. Ciao Francesco. Buonasera a tutti. Ciao Francesco. Allora, archeologia preventiva sembrerebbe una contraddizione. Che cosa vuol dire archeologia, allora, preventiva? È già stato fatto tutto? Beh, in realtà... In realtà no. C'è una cosa che è mancata, molto importante. Praticamente l'archeologia preventiva nasce nel 2005 con la legge dell'allora ministro Lunardi, che prevedeva della diagnosi preventiva appunto in opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, per individuare il potenziale archeologico in maniera tale che queste opere venissero fatte non sul bene archeologico, ma... Certo, se voglio costruire una strada, un'infrastruttura, devo prima stare attento che sotto non ci sia una necropoli. Il problema è che in Italia è grandissimo, in tantissime zone. Soprattutto un grosso problema per le aziende, certo, perché quando trovano il bene archeologico, per legge devono interrompere i lavori, deve essere documentato e poi... Va bene, allora che strumenti usate? Che cosa mettete in campo? Noi principalmente utilizziamo l'incrocio, integriamo i dati, le analisi che vengono fatte normalmente, dei nuovi strumenti. Praticamente facciamo geofisica estensiva e analisi delle fotografie aeree. E niente, per quanto riguarda la geofisica utilizziamo soprattutto il magnetometro, che è uno strumento che è passivo, viene definito in questa maniera, che praticamente analizza la differenza di campo magnetico del terreno. Praticamente ogni oggetto ha un campo magnetico e praticamente lo registra. Quindi se c'è terra hai un certo campo, se sotto la terra, e adesso ci dice a che distanza, c'è magari una serie di massi, il campo cambia. Allora, praticamente è quasi come ha detto lei, perché lui ogni cosa ha un campo magnetico, sia dal terreno, dal sasso, eccetera. E anche il tipo di terreno può dare un tipo di risultato, tipo se un terreno abbastanza ferroso abbiamo dei dati un po' sballati, certo, se invece è un terreno buono, privo di ferro, abbiamo altri tipi di dati. E la stessa cosa si può fare con altri parametri, la temperatura eccetera eccetera. Voi volando proprio percepite anche a vista le differenze. Allora, ieri mi hai mostrato delle foto in cui proprio si vedeva che ad esempio in un campo di grano c'erano delle differenze di colorazione, la vegetazione nasceva maniera differente, e sotto infatti ci hanno trovato una necropoli. E questo lo vedi un po' dall'alto. Questo però. Sì, con le fotografie aeree. Praticamente in determinati periodi dell'anno in cui il terreno, la crescita della vegetazione è stressata perché piove e poi smette di piovere per una decina di giorni, nelle zone dove è più umido o dove non è umido la vegetazione cresce in maniera diversa. Tipo se c'è un fossato il terreno rimane più umido rispetto al terreno attorno e quindi noi vediamo il tracciato del fossato. Stessa cosa con una struttura muraria. Mm-hmm. Se c'è un muro, l'umidità è minore, quindi la vegetazione secca prima e noi dall'alto vediamo, ecco, la struttura. Per dare un'idea dell'applicazione di questo tipo di tecnologia, loro hanno lavorato su un importante progetto nazionale, soprattutto per la Lombardia, che è la Brebemi, che è un'importante bretella autostradale che collega due autostrade. Due, esatto, in cui appunto hanno rinvenuto dei resti importanti e hanno fatto risparmiare all'impresa dei bei soldini. Circa 20 milioni di euro. Che non è poco. Non è poco. Questi resti normalmente non sono più profondi di un tanto, quindi la vostra tecnica funziona, insomma. Ma in realtà molte volte troviamo anche sotto 5 metri, ovviamente più si scende in profondità più il dato viene sballato. Ecco. Ecco, e qui con noi dalla pratica, diciamo, delle startup arriviamo un po' alla teoria, perché qui allo SMAU c'è anche una startup particolare che si chiama appunto Learning Startup, che insegna anche con dei workshop gratuiti come aprire e come diventare uno startupper. E qui con noi Leonardo Zangrando. Buonasera. Buonasera Leonardo. La startup delle startup praticamente, perché siete una startup. Siamo una startup. Insegniamo qualcosa alle startup e cerchiamo di usare lo stesso metodologia che insegniamo alle startup anche su di noi. E in effetti sta funzionando. Storicamente io ho avuto esperienze di tentare di fare startup molte volte e molte volte ho fallito nel senso che non ci sono riuscito. Dopo sul fallimento diciamo qualcosa. Sì, fallimento in senso buono. Mi sono chiesto, ma sono io che sbaglio o c'è qualcos'altro? Ho scoperto, ma non perché l'ho scoperto io, adesso se ne sta molto parlando, che si può riconoscere un processo di sviluppo dell'idea di business che è sostanzialmente sempre lo stesso, è ripetibile. E allora invece lo startup si perde, l'aspirante imprenditore si perde, nel cercare di scoprire questo processo. Cioè invece, c'è un'idea, una teoria di base comune. Diciamo l'osservazione ci porta a vedere che gli startup di successo fanno sempre le stesse cose, o meglio, fanno le cose sempre allo stesso modo. Per esempio, ci fa qualche esempio? Per esempio, tu hai un'idea di business, ti devi rendere conto, prima di tutto, che è una montagna di assunzioni, di ipotesi. Te ne devi rendere conto e ci devi credere. Mm-hmm. Devi credere che tutto quello che tu credi non si possa fare. No, al contrario. Ah. Non è vero finché non l'hai provato. Ah, ok. Devi provarlo a te stesso. Okay. A te stesso, e quindi devi testare tutte le tue assumption. Testarle il prima possibile per evitare di costruire dei castelli su un'assunzione, su un'ipotesi che in realtà non è verificata. Questo da una parte. E dall'altra, non concentrarti sul prodotto, che è uno sbaglio che fanno tantissimi. Questo immagino che sia lo sbaglio principale. Questo per il fallimento. Un momento, come non concentrarsi sul prodotto? Cioè devo fare una bottiglia e dimentico che devo fare bottiglie. È vero, io devo fare bottiglie, sono bravo a fare bottiglie, però la mia bottiglia di colore arancione, che io penso che il mercato morirà per comprarla, magari invece non è vero. E io sviluppo una tecnologia incredibile per fare una cosa che nessuno vuole. Ma se non lo credo fortemente all'inizio? È vero. Però fin dall'inizio io posso iniziare a cercare di capire quale potrà essere il vero cliente per il mio prodotto. Quindi individuare il cliente. Guardo il mercato, infatti, prodotto e mercato, e devo farli combaciare. E quindi devo essere anche umile, sufficientemente umile da cambiare la mia idea iniziale in modo che abbia un mercato a cui risponde. Quindi cercare una nicchia di cui c'è in realtà la domanda. Esatto, e che io posso soddisfare. È chiaro che se faccio bottiglie non mi metterò a fare trattori. E soprattutto tenersi alla larga da una serie di errori. Infatti, Chiara, l'abbiamo visto davanti al loro stand, c'è un grande pannellone con dentro un sacco di frasi. Una delle più belle è quella di Steve Jobs, che dice: perché arruolarsi in marina quando potete fare i pirati? Oppure, come dicevamo prima, un'altra cosa: non preoccuparti di fallire, perché quando fallisci è lì che impari le cose. Sono tante frasi che però sono al suo sono il succo del fare impresa. Fare impresa e imparare, soprattutto nel nostro paese, che non è brutto sbagliare, che non è brutto fallire nel senso di sbagliare, e che è bellissimo fare il pirata, cioè essere chi prende per le corna la propria vita e fa innovazione e aiuta anche il nostro paese a cambiare e invece di sedersi Esce dalle strade consolidate. Esatto, certo. Leonardo, c'è in conclusione un sito internet dove poter trovare queste informazioni o poterti contattare? Certo, c'è il sito internet, è www.learningstartup.org. In questo momento un blog. Stiamo iniziando e si capisce però che cosa pensiamo. La filosofia. Quindi chi deve fare startup vada lì e incomincia ad avere dei consigli fondamentali. Ci saranno dei corsi online, una roba in evoluzione. Esatto. All'inizio della puntata con la prima startup abbiamo già fatto il miracolo dell'eliminazione delle, sì, delle code. Qui però potremmo gettare nel panico un'intera... Le massaie di tutta Italia tra punti fragola e punti fedeltà. Perché la raccolta punti può diventare una raccolta punti da fare direttamente sul nostro cellulare. Ci hanno pensato i ragazzi di Ubi e qui abbiamo il fondatore della startup romana che è Nicola Mattina. Buonasera Nicola. Ciao, buonasera. Che cosa avete combinato? Abbiamo pensato una cosa molto semplice, cioè di eliminare la carta da dentro i portafogli di chi fa le raccolte punti, dal parrucchiere, dal centro benessere, dal solarium e via di seguito, e metterle dentro un'app, dentro al telefonino. In questo modo, non ho più appunto tutta questa carta nel portafoglio, ma allo stesso tempo ho anche uno strumento più intelligente con cui riesco a gestire il rapporto tra negoziante e cliente fedele. Sì. Com'è possibile farlo? Come lo facciamo? Esatto, adesso ci offriamo, ma anche i punti famosi, quelli nel detersivo, tutti quelli. Non arriviamo ancora a quello, noi in questo momento potenzialmente sì, il futuro dei programmi di fidelizzazione è sicuramente nelle app dei cellulari, su questo. D'altro canto, il futuro di molte cose è dentro un'app in un cellulare. L'abbiamo visto qui a Smau, mi pare. Sta andando tutto lì. Esattamente, come diceva Steve Jobs, there's an app for that, no? C'è un'app per questo. Allora Chiara ti chiedeva come fate. Guarda, è molto semplice, oggi diciamo le schedine come funzionano, c'è un pezzo di carta e un timbrino che viene messo, noi invece del timbrino diamo al negoziante un codice, un QR code, quindi quei codici quadrati che oggi si trovano su tutte le pubblicità, sui billboard. Tutti quei quadratini bianchi e neri. Esattamente. E quindi invece di apporre il timbrino sul pezzo di carta, al momento in cui avviene questa operazione, il cliente con il cellulare inquadra il codice, lo fotografa e prende il punto sulla sua scheda. Il vantaggio in più è che il negoziante può comunicare con il cliente, quindi gli può mandare magari delle offerte personalizzate, gli può mandare gli auguri di compleanno. Sì, diventa tutto molto più interattivo. Esattamente. E può gestire, diciamo, il programma di fedeltà anche in un'ottica di lungo periodo, perché lui ha una visione di tutta la vita del cliente e dell'interazione che lui ha con il cliente. Ecco, infatti qui la cosa è sottile, nel senso che noi siamo abituati alle raccolte punti per la grande distribuzione, sì. Quindi noi andiamo a fare la spesa praticamente tutti i giorni, i punti sono migliaia, sì, mentre per quanto riguarda i negozi più piccoli, sì, ovviamente non è così. E voi pensate un po' a questo, al, sì, cercare di fidelizzare i clienti dei negozi, sì, un pochino più piccoli. Sì, perché le logiche di loyalty, diciamo, le logiche di fidelizzazione cambiano moltissimo a seconda del settore mercato. La grande distribuzione ha delle logiche, il petrolio ha delle altre logiche. È ovvio che quando io vado sul centro bellezza, eccetera, non posso fare una raccolta punti per cui devo prendere 1000 punti per avere un trattamento gratis o un'altra cosa di questo genere. E quindi sono raccolte che hanno dinamiche completamente diverse, su cui anche magari si possono aggiungere degli strati di gioco. Oggi è un'altra delle grandi parole chiave, oltre a esiste un'app per fare qualsiasi cosa, è quella che si deve gamificare tutto, cioè bisogna aggiungere il gioco. Giocare. A qualsiasi cosa. Ecco, i punti sono la prima cosa che si mette in un gioco e quindi da lì si può costruire qualsiasi cosa. Pensa all'ipotesi di fare dei programmi di fidelizzazione, so, per centri benessere o palestre, in cui tu hai degli obiettivi da raggiungere, cioè in cui hai delle performance da fare, esattamente come accade in un videogioco. Ma ci fu una signora, un certo numero di anni fa, che andò su tutti i giornali perché praticamente lei aveva organizzato la sua vita per seguire le raccolte punti e aveva ricavato un certo stipendiuccio, sì, di fatto per i vantaggi che portava a casa. In questo modo sarebbe ancora più semplice, perché ce l'hai direttamente nel PC di casa o nello smart. Se è la, se, se è la, come dire, la cliente più fedele del mondo, perché non se premiarla ci se ci dà dentro, assolutamente sì. Sì, e poi con questo sistema avrebbe tutto a portata di mano, assolutamente. Diciamo. Lei non doveva venire qui, perché ho visto che Chiara c'ha degli occhi che le brillano, probabilmente la perderò. Sì, perché io ho mille di queste tessere. Esatto, benissimo. Per fare solo punti. Sarà un nostro che power disastro. User. Che disastro. Va bene, grazie Nicola, in bocca al lupo. Grazie a voi, crepi il lupo. Oh Chiara, qui abbiamo finito. Abbiamo finito, è stato estenuante, ma ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ci sentiamo tutti qui fra 7 giorni.